This is not an exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. :07 minuti primi, siete in diretta, questa è This is not an exit, ahimè, ultima puntata per la stagione 2016-2017, dico bene dottor Scarpa? Sì, buonasera a tutte e a tutti, è davvero l'ultima puntata della stagione, però ahimè non è manco tanto colpa nostra, poi alla fine sai com'è, luglio la gente inizia ad andare al mare, insomma anche noi forse andremo forse. E quindi insomma chiudiamo la stagione in bellezza oggi con un super ospite. Eh sì, in bellezza, un po' come l'anno scorso abbiamo avuto un po' di ospiti, abbiamo fatto una puntata su Tom Zé, una puntata a cui tenevamo tanto, sul Brasile, anche quest'anno una puntata molto estiva, è tornato tra noi dopo più di 2 anni Ilúvatar a parlarci di un tema che ci piace molto, che ci interessa, di Tolkien e del Signore degli Anelli. Benvenuto Ilúvatar. Ciao a tutti, sono Ilúvatar e sono felice di essere qui. Come avete sentito, l'intro iniziale che ho proposto dal 6° album dei Summoning, Let Mortal Heroes Sing Your Fame, è A New Power is Rising, dove si sente chiaramente degli Uruk-hai e degli orchi parlare in linguaggio nero, pronunciando le parole Ashnags Gimpatul, Ashnags Tra-Ka-Tuluk, Ashburzum Ishi Krimpatul, che significano semplicemente un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nell'oscurità incatenarli. We'll be right back. Questi sono i Summoning a This Is Not an Exit. I Summoning sono austriaci, non è per noi molto frequente, anzi, no, direi che questa sia la prima puntata di This Is Not an Exit con un gruppo austriaco. Abbiamo avuto qualche gruppo svizzero, qualche gruppo nord europeo, e soprattutto il black metal era un genere tipicamente nord europeo, dico bene? Certamente, diciamo scandinavo, norvegese in particolare. Diciamo che sono una realtà, sono stati e sono una realtà molto atipica fondamentalmente. E quello che era mia intenzione proporvi questa sera era un viaggio nella mente di Tolkien attraverso la visione di Silenius e Protector, i componenti principali dei Summoning, che appunto hanno, a parte rarissime eccezioni, basato ogni brano che essi hanno prodotto su Tolkien e su ciò che esso ha creato, fino ad arrivare ad essere definiti come Tolkien Black Metal, appunto. Il primo album che abbiamo sentito, Lugburz, è linguaggio nero, significa Barad-dûr, che è Sindarin, che in italiano significa torre oscura, ed è la torre che affaccia su Monte Fato e che alloggia l'occhio di Sauron. Quello che abbiamo sentito è un pezzo che si chiama Through the Valley of the Frozen Kingdom, che parla del potere oscuro che corrompe il personaggio di cui parla la canzone. Fondamentalmente la canzone, anche se non è esplicitato, mi piace pensare che parli di Smeagol, cioè Gollum, che viene corrotto dall'unico anello e, diciamo, trasforma la innocua creatura, cioè l'innocuo hobbit in cui era, in una specie di mostriciattolo dalla lunga vita, fondamentalmente. Thank you. 21 e 26 minuti primi, ancora in diretta. Questi sono i Summoning, un gruppo black metal, ma è riduttivo definire black metal, perché come abbiamo sentito già dalle parole di Iluvatar, i Summoning aggiunsero molto altro, andarono oltre al black metal anche musicalmente e stilisticamente, ma soprattutto andarono oltre le solite tematiche demoniache, pagane del black metal. Inserirono praticamente in tutti i loro album la tematica tolkieniana, e a quel punto ci viene da chiedere: ma perché proprio Tolkien? Ah, niente, è molto semplice. Diciamo che come ogni ragazzino dotato di una particolare sensibilità, Silenius in particolar modo, ma anche Protector, i due componenti principali dei Summoning, hanno sentito la necessità, questa è la mia opinione fondamentalmente, perché io la penso più o meno uguale, di estraniarsi dal mondo reale per rifugiarsi in un mondo, diciamo, immaginario. Solo che questo mondo immaginario, se fosse stato, diciamo, la lettura di un semplice libro fantasy, avrebbe, come dire, smorzato le loro aspettative in un tempo molto molto breve e limitato, per mancanza di storia, per mancanza di dettagli, per mancanza di tante cose che lo avrebbero reso troppo poco definito. Mentre Tolkien, considerando ciò che era, cioè un docente di filologia germanica, un docente di storia medievale, un appassionato di linguaggi, lui e solo lui poteva creare un mondo che fondamentalmente era un qualcosa di talmente realistico in ogni singolo dettaglio da poter essere considerato reale. Per questo la scelta di Tolkien. Per esempio, l'album e il pezzo che abbiamo ascoltato precedentemente, del 1995, è tratto dall'album Minas Morgul, che in Sindarin significa Torre della Stregoneria. Prima di essere corrotta dal potere oscuro di Sauron, fu costruita da Isildur, figlio di Elendil, e si chiamava Minas Ithil, Torre della Luna, in cui essa era custodito uno dei sette Palantir. Il pezzo che abbiamo ascoltato, The Passing of the Grey Company, diciamo, narra dei guerrieri che accompagnarono Aragorn lungo il sentiero dei morti, e la Grigia Compagnia, appunto, sono dei guerrieri morti, sono degli spettri. Yeah. Summoning a This Is Not an Exit, un gruppo molto molto peculiare che parte dal black metal, ma poi insomma quanti gruppi conoscete che per tutta la, o quasi la loro carriera hanno abbracciato un tema e l'hanno tenuto per tutti i dischi. Capisco, fare è consueto trovare dei concept album, ma i Summoning sono un concept group, perché praticamente ogni loro canzone o quasi è intrisa dello spirito tolkieniano. Esattamente, è proprio così. Questo pezzo, Nightshade Forest, è del terzo album, del 1996, e Dol Guldur significa appunto colle di stregoneria, o la, diciamo associato alla fortezza del negromante. In Sindarin era prima chiamato Amon Lank, e poi dopo costruirono la fortezza che poi ospitò appunto il re dei Nazgûl. Il testo è ispirato al canto di Beren e Lúthien e all'incantesimo dei Tumuliland e alla caduta di Gil-galad. E quello che viene, devo stare più vicino, ok. Quello che viene praticamente detto da questa canzone è: una luce brillava nella foresta, era tra le ombre un luccicar di stelle, fanciulla elfica immortale. Lunga era la via tra cancelli di ferro e castelli spietati, i boschi cupi e tetri e luoghi abbandonati. Fanciulla elfica, danza per me, fredda la mano e il cuore e le ossa, freddo anche il sonno è nella fossa. Mai vi sarà risveglio sul letto di pietra, mai prima che muoia il sole e la luna tetra. Nel vento nero le stelle anch'esse moriranno, ed essi qui sull'oro ancora giaceranno, finché l'oscuro signore non alzerà la mano, sulla terra avvizzirà e sul mare inumano. E volerò via, dove sarò nessun lo potrà dir, e la mia stella cadde nelle tenebre profonde a Mordor, dove la cupra ombra si diffonde. Questo è il testo, bellissimo. Thank you. Iluvatar, toglimi una curiosità, magari una curiosità anche dei nostri ascoltatori. Come hai conosciuto i Summoning? Ah, è stato un incontro fortuito, diciamo, come succedeva quando eravamo ragazzini noi, no? Non c'era internet, non c'erano, diciamo, i mezzi di diffusione di informazioni che poi si sono che mano a mano hanno preso sempre più piede, e quindi era un passaparola, leggendo riviste di musica, non so, tipo heavy metal, che ne so, varie altre riviste, diciamo, del settore, Grind Zone, ma cioè, qui andiamo anche prima di Grind Zone, perché qui stiamo parlando del 96-97, e quindi io li conobbi grazie ad un amico che non ha fatto altro che farmi conoscere gruppi che inizialmente, quando avevo 14-15 anni, mi facevano, non dico schifo, però mi sembrava rumore, no? E ascoltavamo in macchina e faceva un gran casino e dicevo, boh, cazzo è sta roba. Però diciamo che con il passare del tempo non ho fatto altro che assimilare le informazioni e le nozioni che avevo acquisito per poi proseguire in una sorta di mio percorso personale, per cui li ho conosciuti, diciamo, grazie ad un amico. Quindi nel 90 i Summoning avevano un buon successo già. Beh, oddio, definire un gruppo famoso... successo, tra metal, tra black metal, ecco. Sì, sì, erano conosciuti soprattutto perché, diciamo, molte persone che ascoltano questi generi sono appassionate delle stesse cose. Per cui ci trovava a parlare di Tolkien e era automatico che saltasse fuori, anche se si parlava di musica, che saltassero fuori anche i Summoning. Era la diretta conseguenza, ecco. Il pezzo che abbiamo ascoltato, volevo solo dire questo, è tratto dall'EP che si chiama Nightshade Forest ed è dedicato appunto a Bosco Atro. Il titolo è Mirkwood, che appunto significa Bosco Atro sempre in Sindarin, ed è appunto la canzone intera è dedicata quindi è una canzone opprimente, molto oscura, ed è dedicata appunto a questa foresta. Thank you. Questi gentili ascoltatori sono i Summoning, un gruppo molto importante nell'ambito metal. Ricordo che il metal su piattaforme come Spotify e altre è uno dei generi, se non il genere più ascoltato nel 2017. Qua siamo 20 anni prima circa, negli anni 90, soprattutto all'inizio degli anni 90 ci fu un'esplosione incredibile di black metal, death metal, grind, insomma fu una vera e propria rivoluzione musicale per certi versi. Poi ci furono gruppi come i Summoning che, partendo da un genere ormai codificato come il black, aggiunsero tanto altro e si scavarono una loro nicchia importante. Esatto, infatti il pezzo che avete ascoltato ora è tratto dal quinto album della band, il nome del quinto album è Stronghold, ed è l'album, diciamo, meno dedicato o meno associabile a Tolkien che i Summoning hanno fatto, perché all'interno di questo brano, di questo album, scusate, erano presenti almeno 3 pezzi che avevano tematiche e testi non tolkieniani. Di cosa parla il brano che abbiamo ascoltato? Il titolo è The Rotting Horse in a Deadly Ground. Descrive, visto che è stato ispirato allo scritto tolkieniano di La canzone di Eriol, scritto da Tolkien a Essington mentre era in guerra durante la prima guerra mondiale nel 1917, descrive un paesaggio devastato e in fiamme in una terra decaduta, e l'immagine di un cavallo, diciamo, scheletrico e marcio che cavalca su questo panorama, no? Il punto, lo scritto è tratto dalla canzone di Eriol. E chi è Eriol? Eriol è un viaggiatore, è il primo grande viaggiatore, ed è ispirato a Elfwine, che è un anglosassone del V secolo proveniente dalla Mercia, che Tolkien ha usato per creare questo personaggio. Eriol è il primo personaggio, diciamo, di Arda, il mondo che ha creato Tolkien stesso, che raggiunse l'isola di Torresea, raggiungendola trovando la strada dritta, così l'ha chiamato, un'isola che è prima delle terre imperiture, prima delle terre immortali degli dei, che era stata isolata dalla razza umana per millenni. Come l'ha trovata? Seguendo i consigli di un vecchio. Questo vecchio è stato poi rivelato a Eriol dagli elfi, quando è arrivato, che era in realtà Ulmo, che in Quenya significa colui che versa, è il dio del mare, delle acque e degli oceani, e il linguaggio Quenya, inventato da Tolkien, è da lui stesso definito il linguaggio del suo cuore. Saruman, come forth! e alle 22.02 minuti primi al vostro conduttore preferito sorge spontanea una domanda: ma Tolkien, come diavolo ha fatto a inventarsi tutte queste lingue? Questa è una super domandona. Diciamo che lui era un appassionato di storia, di epica. Nonché docente. Era un professore universitario e era un appassionato di linguaggi fondamentalmente. Era un, come dire, un linguista. Ispirandosi a ciò che è realmente esistito e che esiste tuttora nel mondo, sia dal punto di vista dello scritto che dal punto di vista, diciamo, del parlato e della parte orale, ha cercato di estrapolare tutto ciò che lui amava, creando un qualcosa di nuovo e di diverso. Per esempio, per l'elfico è estremamente musicale e ricco di vocali, si è ispirato alle lingue orientali, intese come medio orientali, come l'arabo per esempio, e come scrittura, appunto, è una scrittura estremamente bella da vedere dal punto di vista estetico, molto curvilinea, e ha impiegato, secondo me, cioè anni e anni per studiare tutto questo. E quindi questo mi fa sospettare che tra insegnamento, incontri con il suo club informale di altri scrittori, tra cui C.S. Lewis, che lo conoscerete per Le Cronache di Narnia, che era un suo amico e compagno di bevute, tra la scrittura di, diciamo, di linguaggi, di racconti legati alla Terra di Mezzo, bevute e lavoro, secondo me ha trascurato un po' la moglie, ecco. Chissà. We'll be right back. Ebbene sì, i Summoning sono riusciti anche a evocare il barrito degli olifanti, ovvero gli elefanti da guerra narrati da Tolkien, se non mi ricordo male, proprio nel Signore degli Anelli. Non male per un gruppo che partiva imitando Mayhem e compagnia cantante, oppure compagnia suonante, perché di cantato c'era poco. Esatto. E voglio coprire un buco che ho creato prima, no? Il pezzo precedente si chiamava Saruman, l'avete sentito, perché c'è l'invocazione a Saruman. C'è Gandalf che lo chiama direttamente da Orthanc e praticamente descrive il faccia a faccia tra Saruman e Gandalf. Avrete sicuramente sentito parlare sia dell'uno che dell'altro. E entrambi che cosa sono? Non sono dei semplici uomini, sono descritti nel Signore degli Anelli, cioè prima nello Hobbit come degli stregoni, però non sono degli esseri umani normali. Istari sono degli Istari. Istari significa, in Sindarin significa saggio. Sono cinque. Saruman era il bianco e poi diventò il multicolore perché abbracciò, diciamo, il potere oscuro. Gandalf era prima il grigio, poi combatté contro il Balrog e risorse, essendo una divinità minore, è un Maiar, risorgendo come il bianco. E il suo vecchio nome era Olorin, appunto. Non vi sto a tediare con altri dettagli e vi parlo invece dell'ultimo pezzo che abbiamo sentito. Allora, il pezzo precedente è del 2003, ma è una registrazione che fecero nel 96-97, quindi in tempi non sospetti, nel senso che il film di Peter Jackson uscì nel 2001, per cui cioè, loro hanno parlato di Tolkien molto molto prima di qualsiasi, diciamo, cosa modaiola. Outbound invece, scusami, del 2006, il loro ottavo album, ha prodotto il pezzo che abbiamo sentito poco fa, che si chiama Myrdautas Vras, che in linguaggio oscuro significa un buon giorno per uccidere, ritornando anche ad una sorta di richiamo, una canzone bellissima dei Bathory da Blood Fair Death, che è A Fine Day to Die, un buon giorno per morire, invece no, in questo caso è un buon giorno per uccidere. Perché? Perché gli Uruk-hai e gli orchi sono in battaglia e il linguaggio che parlano è appunto il linguaggio nero, e il pezzo è tutto completamente scritto in linguaggio nero, che è un linguaggio che ha creato Tolkien anch'esso, ma che ha sviluppato molto poco, per cui sono stati fatti degli studi linguistici che hanno preso parole tratte da vari racconti, in particolar modo da The History of Middle-earth, che racchiude i racconti perduti, ritrovati e incompiuti, e tanto altro, perché sono 12 volumi, mai tradotti in italiano, e hanno messo insieme tutte le paroline e hanno creato il testo di questa canzone, di cui vi leggo solamente una piccola parte. Oscuri sono stati i miei ultimi sogni, di segreto dubbio e segreta paura, un migliaio di anni sono andati per imporre morte e terrore. Cavalcano a nord un migliaio di orchi, su lupi con giganti zanne insanguinate, essi portano la tempesta e la forza di Mordor attraverso il mondo. Fuoco e ghiaccio in Asgul volano, è un buon giorno per uccidere, di rosso è la terra e il cielo, persino Manwë si inchinerà. can't touch this. Ultimi minuti per This Is Not An Exit, annata 2016-2017. Speriamo sia stata una buona annata, soprattutto per voi gentili ascoltatori che avete avuto la pazienza di seguirci durante tutti questi mesi, anche perché abbiamo veramente spaziato, come al solito, un sacco di settimana in settimana, hip hop, musica elettronica, metal, hardcore, di tutto, come al solito. Per finire veramente in bellezza, parlando di Tolkien, non lo leggo da più di 20 anni, probabilmente, non lo so, però ovviamente Il Signore degli Anelli è uno dei miei libri preferiti, e non solo mio, mi sa, perché parecchia gente la pensa così. Beh, direi proprio di sì. Infatti, vabbè, non solo i summoning. No, infatti, certo. E beh, Tolkien ha ispirato tantissime persone, migliaia di gruppi musicali, ma non ha ispirato solo la musica, ha ispirato l'arte in generale, i vari pittori, i disegnatori in generale. Tra i miei preferiti Ted Nasmith, Alan Lee, poi vabbè, un'infinità di persone anche normali che hanno letto, quindi milioni e milioni di persone che hanno letto i suoi scritti. Noi abbiamo fatto un viaggio che è un viaggio attraverso la mente dei due principali membri di questo gruppo austriaco, appunto i Summoning, e attraverso la loro passione, attraverso il loro studio degli scritti di Tolkien abbiamo visto, perché non l'abbiamo solo sentito, perché se avete ascoltato attentamente lo abbiamo anche visto, abbiamo visto quello che Tolkien ha voluto regalarci. Per esempio Outbound del 2006, con il pezzo precedente, non l'ultimo ma il penultimo, è completamente basato su dei testi che appunto in italiano non sono mai stati tradotti, che fanno parte di History of Middle Earth, che sono i Lays of Beleriand, che è un poema che iniziò Tolkien nel 25 e che non fu mai finito da lui. Il canto dodicesimo, per esempio, no scusate, il canto undicesimo, chiamato The Jest of Beren and Lúthien. Beren e Lúthien sono la personificazione di Tolkien stesso, che sulla sua tomba ha voluto scrivere data di nascita e di morte con il suo nome e di fianco Beren, e la tomba di sua moglie ha la data di nascita, la data di morte e Lúthien scritto di fianco. La sezione critica del canto undicesimo dei Lay of Beleriand è stata scritta da C.S. Lewis, lo scrittore delle Cronache di Narnia, per esempio. Mentre l'ultimo album che abbiamo ascoltato, il pezzo è Flammifer, l'album del 2013, Old Morning Dawn, per dare un dettaglio, dopo 7 anni di inattività e anche il rischio di scioglimento da parte del gruppo per problemi di salute di Silenius, è un pezzo che è stato tratto dal canto di Erendil. Erendil è un marinaio mezzelfo ed è un abitante del regno di Gondor. Il suo nome significa in Quenya amante del mare, e quando lui viaggiava verso le terre imperiture con la sua nave, che è chiamata Stella del Mattino, perché su di essa era allocato un Silmaril, uno dei tre Silmaril, che Silmaril anch'esso in elfico significa radianza di pura luce, e anch'esso in Quenya appunto. Quando arrivò nelle terre imperiture, gli elfi lo accolsero con una frase in Quenya, e la frase era Aya Erendil Elenion Alcalima, che significa salute Erendil stella lucente. Ed è veramente bellissimo come, descrivendo qualcosa che teoricamente non esiste, Tolkien abbia creato tutti i presupposti quasi fisici che ti danno la possibilità di toccare, di sentire ciò che non esiste, appunto, rendendolo quasi più reale della realtà stessa. Per me è una cosa bellissima. È soprattutto credibile. Direi che nel Novecento lui e Lovecraft sono riusciti a crearsi due mondi così sofisticati e complessi. Esatto. Quasi una mitologia, quasi simile a quella greca, una cosa magnificente. Comunque, con questo vi salutiamo, ringraziamo Ilúvatar per questa bellissima puntata, speriamo vi sia piaciuta. Grazie a voi. A questo punto vi rimandiamo tutti a settembre, dico bene? Sì, settembre-ottobre più o meno, insomma, quello è il periodo, come ogni anno. Buona estate a tutti e arrivederci, a risentirci. A risentirci su queste frequenze, Radio Città del Capo. Buonanotte a tutti.